Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Questa sera, a costo di passare per Menagramo, voglio cominciare ricordando a tutti, insomma, che nella migliore delle ipotesi, cioè quella di una lunga vecchiaia, un po' di disabilità toccherà quasi certamente a ognuno di noi. Perciò, insomma, quello di rendere le abitazioni e anche gli spazi pubblici il più possibile amichevoli per chi ha un qualche tipo di disabilità è un tema che ci riguarda da vicino e che diventerà sempre più pressante in considerazione del fatto che la popolazione sta rapidamente invecchiando. E allora andiamo a Trento, dove tra provincia autonoma, dipartimenti di ingegneria dell'Università di Trento e azienda provinciale per i servizi sanitari hanno preso sul serio questo tema, e bisogna dire non da oggi, per parlare di un progetto che si chiama Ausilia, Assisted Unit for Simulating Independent Living Activities, acronimi sempre un po' complicati, ma insomma, per capire di cosa si tratta abbiamo in linea Tommaso Pisoni, che è Project Manager di Ausilia e anche ricercatore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento. Buonasera Pisoni. Buonasera. Senta, allora, qual è l'obiettivo di questo progetto, il servizio che avete in mente di offrire? Partiamo da qui. Allora, Ausilia si propone per la realizzazione di un laboratorio che servirà per lo studio degli ausili, sia tradizionali che innovativi, per il recupero delle abilità perdute da parte di soggetti che, invecchiando oppure per qualche evento traumatico, certo, hanno perso parte della loro autonomia. Ecco, parliamo di sperimentare accorgimenti che possono finire dentro le case, no, di queste persone, e che possono aiutarle a vivere in modo, insomma, più semplice, magari con meno bisogno di aiuto. Ecco, in cosa consistono queste strutture, questo laboratorio? Sono due le facility sostanzialmente, e come si svolge la ricerca? Sì, infatti il laboratorio si sviluppa in due ambienti. Uno che è una palestra attrezzata in cui il paziente con il terapista prova diverse soluzioni anche basate su studi di ergonomia per recuperare appunto delle abilità. Ecco, quando dite palestra uno pensa agli attrezzi ginnici, in realtà è una palestra dove sono riprodotti tanti ambienti domestici alla fine, no? Riconfigurabili, questa è la forza di questa struttura. Esatto, la palestra contiene una serie di simulacri di vari ambienti domestici in cui si studiano diverse soluzioni in modo da permettere all'utente di valutare quali sono le più adatte alle sue esigenze o alle sue abilità perdute. Ecco, per esempio? Per esempio, non so, un esempio molto banale è quello della maniglia della porta. Una maniglia a pomello che qualsiasi persona con una forza da giovane riesce a gestire senza problemi, può, certo, creare delle difficoltà. Meglio una maniglia lunga, addirittura il materiale di cui sono fatti i pavimenti, piuttosto che ovviamente la disposizione degli oggetti. Voi sostanzialmente provate, riconfigurando questi ambienti rapidamente, le provate un po' tutte, diciamo così. Esatto, sì, esatto. Eh? Proviamo a fornire soluzioni alternative per vedere qual è la più adatta. Ecco, con una componente, diciamo, di ergonomia, se ho capito bene, anche una componente di domotica. Sì. Parallelamente alla palestra, l'utente vive per un certo periodo all'interno di un appartamento attrezzato con soluzioni domotiche e assistenziali e una serie di sensori che ne valutano le performance durante la sua attività quotidiana e valutano qual è la migliore soluzione per lo specifico utente e per le sue difficoltà. Perfetto, e quindi c'è un passaggio dalla palestra poi a questa specie di casa domotica attrezzata. Ecco, a chi si rivolgerà il vostro servizio? Una volta che avrete appunto finito di costruire questo laboratorio. Sì, questo laboratorio troverà spazio all'interno dell'ospedale Villa Rosa di Pergine, di Pergine Valsugana, in provincia di Trento, che è un ospedale riabilitativo e si rivolge agli utenti in fase di dismissione dalla struttura ospedaliera che vogliano sperimentare delle soluzioni per poi eventualmente migliorare la propria soluzione abitativa. Ecco, perché è proprio uno strumento per progettare la casa in cui, per esempio, potranno andare a vivere queste persone che hanno subito un trauma, perché quello appunto è un centro di riabilitazione. Quindi i primi utenti saranno non degli anziani probabilmente, ma anche persone giovani di tutte le età che hanno subito un evento traumatico. Sì, noi al momento abbiamo delle candidature per la fase preliminare, ovvero per la definizione del servizio, e sono persone giovani che hanno appunto subito, che hanno appunto delle difficoltà ambientali. Dopodiché il servizio si propone a tutti gli utenti che ne facessero richiesta. Ok, quindi diciamo che un anziano signore della provincia di Trento potrebbe andare all'ASL e dire: senta, io vorrei, devo riprogettare la casa, per esempio, non sto ristrutturando casa e voglio progettarla secondo delle nuove esigenze, e può usufruire di questa infrastruttura, è così? Esattamente, esattamente. Noi non ci rivolgiamo ovviamente solo ed esclusivamente agli utenti della provincia di Trento, ma anzi siamo totalmente aperti anche al resto del paese, ecco, così Italia, insomma, certo. Saranno contenti, come dire, i contribuenti italiani, no? Perché insomma queste cose difficilmente si vedono in regioni o in province che non hanno l'autonomia finanziaria della provincia di Trento, per dirla tutta. Va bene, grazie Tommaso Pisoni. Grazie a lei, buonasera. Buona serata a tutti.